Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Anche questa settimana è volata, siamo a venerdì, ma questo è un venerdì particolare, un po' delicato, perché chiude quella che è a tutti gli effetti la settimana della ripresa. Con l'inizio della scuola la famiglia si rimette in moto, si torna alla normalità e ci sono alcuni segnali che ce lo confermano, alcuni piacevoli, altri un po' meno, come quel cerchio alla testa che in vacanza ci aveva lasciato e che in questi giorni temiamo torni a far capolino. In linea con noi il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, bentrovata. Professore, ci risiamo. Ci aveva dato qualche avvisaglia, ma ora sembra intenzionato seriamente a tornare. E domani è il suo giorno preferito, il sabato. Sì, il giorno preferito in particolare è dall'emicrania, perché innanzitutto dobbiamo dire che il mal di testa andrebbe chiamato mal di meningi, perché il cervello, strano a dirsi, non è sensibile, è sensibile solo la sua pelle. E la cosa strana è che il cervello dell'emicranico è una fuorisede, cioè tenetemi impegnato altrimenti mi ingolfo, oppure come un levriero, i levrieri mi dicono o corrono, e questo lo sanno tutti, o stanno impalati. Forse la sera prima, quindi attenti oggi che è venerdì, abbiamo comprato un po' tutti i biglietti alla lotteria del mal di testa, a letto tardi, aperitivi, alcolici, un bicchiere in più e così via. Per chiedere agli ascoltatori di darci un po' dei segnali per comprendere il tipo di mal di testa che hanno, anziché domandare dove vi viene e quando vi viene, possiamo chiedere adesso come si comportano. E cioè immaginiamo il comportamento del mal di testa come un ballo. Allora mi permetterei di immaginare, mi piace, chi durante il mal di testa si immagina a fare il ballo del mattone, quindi le luci soffuse, la musica con poche percussioni, movimenti lenti, immaginate magari l'emicrania, oppure un valzer lento, belli impettiti, movimenti ampi, il ritmo scandito ma non eccessivo, e questo magari riattiva la cefalea, il soggetto con cefalea di tipo tensivo che invece è stato incurvato sul computer e magari stressato. Oppure, il più drammatico, il ballo di San Vito, l'hip hop, il tip tap, mettiamola come vogliamo, è la grande frenesia, in realtà unita agitazione della cefalea a grappolo. Quindi se il tuo mal di testa fosse un ballo, che ballo sarebbe? 800 24 00 24. Parliamo anche del diverso comportamento delle persone durante i diversi tipi di mal di testa. Abbiamo detto che molti di noi ci stanno già arrivando i messaggi: nel weekend in vacanza non sentivo nulla, già temo che domani il mal di testa si ripresenti, mi scrive Carla. Allora forse si potrebbe proprio approfittare del weekend per verificare la validità di un rimedio per il mal di testa suggerito dai ricercatori dell'Università di Münster. Il sesso potrebbe essere il rimedio del futuro contro l'emicrania e la cefalea a grappolo. Lo suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Cefalagia da un gruppo di ricercatori tedeschi che hanno chiesto di compilare un questionario specifico a pazienti affetti rispettivamente da emicrania e da cefalea a grappolo. L'analisi dei dati raccolti ha svelato che il 60% dei pazienti che hanno avuto occasione di fare sesso durante un attacco di emicrania hanno visto ridursi i sintomi di questa forma di mal di testa. Nel caso della cefalea a grappolo, la percentuale di chi ha provato sollievo con l'attività sessuale è invece del 37%. Questi dati suggeriscono che l'attività sessuale può portare a un sollievo parziale o completo del mal di testa in alcuni pazienti che soffrono di emicrania e in un po' di pazienti che soffrono di cefalea a grappolo. Professor Barbanti, ci fidiamo, ci buttiamo, ci proviamo? Beh, direi di sì, perché l'attività sessuale è un'attività dissonante. Di solito noi abbiamo la testa che stressa e il corpo che sta fermo. Sì. Nell'attività sessuale è uno stress fisico e la testa invece perfettamente si rilassa. Adrenalina allo stato puro ha un effetto quindi analgesizzante. le endorfine, l'ossitocina, ti libera un po' tutto ciò che serve a levarci il dolore, ma soprattutto nell'attività sessuale. Il nostro rigido ministro degli interni, che è il sistema nervoso vegetativo, smette di dare ordini troppo rigidi ai suoi prefetti, che sono i vari organi del corpo, dando ai rompete le righe, in questo caso l'attacco, se era lì per lì, si può bloccare, mentre invece se l'attività sessuale viene considerata come non un singolo episodio, ma una vita sessuale attiva, può in realtà sincronizzare il rapporto tra soma e psiche, migliorando quindi anche il nostro dolore di testa. 800 24 00 24, mal di testa, il mal di meningi, come dice il professor Barbanti, è un problema molto diffuso che colpisce tantissime persone. Quante più o meno, professor Barbanti? Il mal di testa, lo dice chiaramente l'OMS, è la malattia più frequente del mondo. 2 miliardi e 400 milioni di persone hanno il mal di testa, e la cosa strana è che poi i soggetti con mal di testa spesso non se lo vanno a cercare. L'emicrania in particolare, il soggetto è una persona piuttosto dedita al dovere, metodica, ligia, che tende, direi, a un tram tram di grande attività. Questo è il suo pregio, ma questa sua grande metodicità, neanche il difetto, e a volte può essere complice nello scatenamento dell'attacco. Colpisce i giovani, meno giovani, gli uomini, le donne. Con noi sembra proprio avere un feeling molto particolare, e si vive accanto, anche se non si soffre direttamente, tante volte si subisce il mal di testa del proprio partner, del proprio familiare, di un familiare, di un collega di lavoro. Quindi io aspetto le vostre chiamate all'800 24 00 24, e abbiamo già una chiamata da Livorno. Buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi. Mi racconti? Io in verità fino all'età di 23 anni non ho mai sofferto di mal di testa. Quest'anno ho iniziato a lavorare, mi sono laureata. Brava! Grazie! In che cosa sei laureata? In comunicazione, lavoro in un ufficio stampa. Brava, in bocca al lupo. Giovanissima? Giovanissima, 9 ore al giorno davanti al computer, grandi mal di testa che mi colpiscono soprattutto la parte destra, in special modo l'occhio, che mi si chiude. Il mio datore di lavoro sapeva quando avevo mal di testa perché mi vedeva l'occhio praticamente quasi chiuso. E non riuscivo nemmeno, quando tornavo a casa, lo sopportavo, non riuscivo nemmeno a cucinarmi, dovevo mettermi al buio e in silenzio. Quindi se fosse un ballo sarebbe il ballo del mattone, professor Barbanti, vero? Un bel lentone, che adesso non li ballano più, lei lo sa, i lenti, più. A 16, 17, 18 anni li aspettavamo nelle discoteche, adesso non si ballano più, è vero. Va bene, loro si sono persi una cosa bella, va bene, comunque torniamo al ballo del mattone della nostra giovane amica di Livorno. Sì, a Laura è successo semplicemente questo. Laura è una donna, come il 27% delle donne, predisposta all'emicrania. Sostanzialmente è come se avesse un cerino in mano, ma fino a qualche tempo fa non c'era quella superficie rugosa su cui sfregarlo. La superficie rugosa, che cos'è? È la nuova attività, è il travaso dal mondo dello studio a quello del lavoro, la presenza di un'attività che ha pause diverse, a volte mancano anzi le pause rispetto a quelle universitarie, e quindi si accende la scintilla del mal di testa. Questo potrà essere per Laura, da un lato, un monito a cercare di regolarsi un po' di più nei suoi entusiasmi, a volte negativi, ma d'altra parte, se gli attacchi fossero numerosi, rivolgersi a medici per cure specifiche. Quell'occhio che ci ha segnalato che si chiude, perché il mal di testa ha anche una faccia. Ho colto questo dettaglio, professore. È vero, è vero, è un segno, direi, piuttosto tipico, presente nel 40% degli emicranici. Si attiva un riflesso di difesa. Se io mi metto un dito in un occhio, anzi se qualcuno me lo mette, l'occhio mi si chiude, lacrima, oltre a farmi male. È talmente forte il dolore che Laura sente che si attiva quella reazione fisiologica di lavaggio e di chiusura dell'occhio che istintivamente madre natura ci ha dato per allontanare le cose che ci fanno dolore, che abitualmente sono cose pericolose. In realtà l'emicrania non è pericolosa, è semplicemente un male sine materia, un eccesso di legittima difesa, in questo caso anche del suo occhio. Professore, molte persone sanno esattamente quando verrà il loro mal di testa, alcune in che giorni, altre addirittura in che ora. Ma questo com'è possibile? C'è un orologio dentro il cervello? È possibile dire ai nostri ascoltatori: dimmi quando ti viene il mal di testa, giorno, notte, weekend, un periodo particolare del mese, una stagione, e ti dirò chi è? Sì, devo dire che molte volte ce lo dice il paziente stesso. L'esempio più tipico è la cefalea mestruale, che è tipicamente un'emicrania, prende intorno al periodo del flusso mestruale, qualche giorno prima, durante, qualche giorno dopo, e in questo caso ancora la colpa non è degli ormoni, ma dell'impatto delle variazioni degli ormoni su un terreno minato, cioè su una ereditarietà, che rende il cervello troppo scattante, troppo responsivo a quegli stimoli che sono normali e che lui travisa e considera dolorosi. Ma poi dimmi quando hai mal di testa e ti dirò chi sei. L'emicranico non ha mai mal di testa la sera. Alla sera mal di testa il soggetto con la cefalea tensiva, che si è vestito di bianco alla mattina e arriva la sera con i vestiti pieni di ditate, un modo per dire: è libero dagli stress dalla mattina, alla sera sempre più caricato dalle sue tensioni. E poi chi si sveglia al mattino con mal di testa, la maggior parte delle volte ha solo l'emicrania. Basta pensare ai cuscini: di notte la testa è posta sul cuscino e il collo non lavora, ma non conta il cuscino. C'è il fatto che nelle prime ore del mattino si libera tanta serotonina in un cervello con poca serotonina, come gli acquazzoni di fine agosto dopo tanto tempo di siccità. Si chiudono i tombini, si intasano, parte l'emicrania. Maurizio da Campobasso, 800 24 0024, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Perché ride Maurizio? Ascoltavo con tale interesse, perché è bizzarro, si parlava di numeri, 2 miliardi di persone che soffrono di mal di testa. Io spero di non, ecco, di non buttarmi avanti dicendo poi cose, nel senso, io non so cosa sia il mal di testa, non l'ho mai avuto e mi auguro che da adesso in futuro non lo avrò mai. Sì, perché non se la perché uno dice no, non vorrei gufarmela, ma intanto assolutamente. Io ho 40 anni, conosco persone che hanno sofferto di mal di testa, avevo anche un'ex fidanzata che soffriva, poverina, di mal di testa veramente indescrivibile, dolori veramente fulminanti. E non riuscivo a comprendere questa cosa. Adesso sento anche colleghi, tante persone che comunque... Ecco, sembra quasi che sia aumentato, vero, il numero delle persone che soffrono di mal di testa. Professor Barbanti, però Maurizio le meningi ce le ha. È fortunato, ha un cervello diverso, prende meglio la vita. Maurizio, intanto, magari se le venisse una volta il mal di testa, mi chiami subito, che così noi che la mettiamo subito in contatto col professor Barbanti e lo facciamo subito fuori. Un abbraccio Maurizio, grazie per aver telefonato, grazie, è stato molto voi, carino, grazie. Professor Barbanti. Maurizio è una primula rossa, perché solo il 20% delle persone nel mondo non sa mai cosa sia una cefalea, anche la più banale, di tipo tensivo. Maurizio ha una fortuna e credo anche un merito. La fortuna di non aver ereditato il terreno minato, il merito è quello che la sua vita, evidentemente per fortuna, ma forse credo, anzi vorrei sperare per sua bravura, riesce a indirizzarla, a farla fluire senza troppi stress. Perché se è vero che il programma ce lo trasmettono i genitori con la genetica, è vero però che il casus belli, che nella donna è spesso l'ormone che varia, nel genere umano in senso lato è rappresentato dallo stress. Quindi fortunato ma anche bravo Maurizio con le sue strategie di vita. Allora, sono poche le persone che non conoscono il mal di testa, e noi vorremmo che il mal di testa non interessasse, non colpisse i nostri bambini, ma anche i bambini ne sono colpiti, e questo forse aumenta il numero. Professor Barbanti, di fronte ad un bambino piccolo, parliamo di un bambino delle elementari, di un ragazzino delle medie che ha il mal di testa, i genitori, soprattutto se le crisi si ripetono, si preoccupa. Quali sono le cose da fare, gli accertamenti? Possiamo aspettare, temporeggiare? O è meglio subito parlarne col pediatra? Meglio parlare col pediatra, la maggior parte dei casi sono allarmi che rientrano. Direi ai genitori di fare i genitori, cioè di essere un po' rigidi, paradossale quello che dico con i figli. Perché dico questo? Perché la maggior parte dei nostri ragazzini dorme poco e fa colazioni scarse. Questo ambo è un ambo sfortunatissimo per il bambino predisposto al mal di testa, perché non ha il tempo di ricaricare le batterie, cioè i mitocondri, che è figlio di emicranico o di emicranici, sono notoriamente piuttosto scarichi. Quindi controllare che il bambino abbia una vita da studente. Seconda cosa, e qui la battaglia è persa, i nostri figli non vanno più a giocare in cortile, non giocano più a pallone, fanno sport, che è un'altra cosa, fanno corsi ed è un'altra cosa, le attività extrascolastiche sono stressanti e qui mettiamoci un po' il cuore in pace, è difficile tornare indietro. Attenti però agli aspetti psicologici, perché sono molto molto importanti. E in linea con noi abbiamo il professor Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto, ciao! Ciao, buongiorno a tutti! Allora, il bambino torna a casa, si lamenta, un mal di testa, va a scuola e si lamenta, la maestra dice il suo bambino voleva venire a casa perché aveva mal di testa, al mattino cerca di non andare a scuola lamentando il mal di testa. Abbiamo già parlato col medico, sono escluse cause organiche. Quali sono le parole per farsi raccontare questo dolore? Forse attraverso il mal di testa il bambino racconta delle cose che a parole non sa raccontare. Sì, il problema dei sintomi come il mal di testa nei bambini è proprio che servono a raccontare in un altro modo qualcosa che al bambino fa male, per il quale il bambino non ha parole e che necessita di essere intercettato, individuato, a volte addirittura indovinato dai genitori. Come genitori, quando abbiamo un bambino che ha un sintomo come il mal di testa, spesso il mal di pancia, senza cause organiche perché il pediatra o il neuropsichiatra lo hanno escluso, dovremmo proprio farci la domanda, da una parte, che cosa è successo negli ultimi mesi che può essere un evento critico che nel nostro bambino è diventato una sorta di preoccupazione emotiva così forte da fermarsi proprio nella sua testa come un peso e farlo star male. Di solito se i bambini temono la separazione dei genitori, se di recente c'è stato un lutto, se c'è stato un grande cambiamento nella vita familiare, per esempio un trasloco, siamo finiti in un'altra città, se il bambino ha perso un amico del cuore perché non gli abita più vicino, ecco, queste potrebbero essere tutte motivazioni. C'è un altro aspetto che credo sia molto poi vicino anche alla cefalea degli adulti, cioè ci sono bambini che entrano nella vita un po' con l'atteggiamento del guerriero, vogliono essere sempre i primi, vogliono primeggiare e questo significa che, per esempio, quando comincia la scuola, che sono così in tensione rispetto al risultato e a quello che vogliono ottenere da se stessi, che in loro si sviluppa in realtà una cefalea muscolo-tensiva molto simile a quella dell'adulto. Un po' da competizione. E certo, e quindi in questo caso sono bambini che devono essere proprio invitati da una parte a imparare il rilassamento e dall'altro proprio a rinormalizzare le aspettative che hanno verso se stessi. Quali sono le parole che curano, che accolgono un bambino? Ma io più che le parole, proprio perché è un modo un po' simbolico quello che il bambino inconsciamente usa per raccontare un suo disagio, userei molto i gesti, nel senso che ti fa male questa testa, vieni qua che la massaggiamo ben bene e proviamo a vedere se passando le mie mani, accarezzando la tua testa, là nel punto dove ti fa male, con calma noi riusciamo a sciogliere quel dolore. Ecco, è un modo con cui il genitore resta in contatto con il suo bambino, lo fa attraverso una comunicazione emotiva, non usa la razionalità e pian piano questo sciogliere spesso permette al bambino poi di sentirsi tranquillo per poter raccontare quello che lo fa star male. Grazie ad Alberto Pellai per essere stato con noi. Buona giornata, Alberto. Anche a voi, grazie. E continuate a restare con noi, parliamo di mal di testa. Se il vostro mal di testa fosse un ballo, quale ballo sarebbe? Soprattutto in che ora insorge? In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti che rimane insieme a noi. Naturalmente parleremo anche di alimentazioni, di massaggi. Molti messaggi che arrivano al 349-238-6666. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Che dire, vi aspetto, soprattutto se vivete accanto ad una persona che si confronta col mal di meningi. Forse potete dare una mano anche voi. Essere e benessere. Professor Barbanti, un po' con noi ce l'ha il mal di testa, mestruale, poi in gravidanza sembra darci solo ad alcune una tregua e poi la menopausa. Non è, come lei anticipava, solo un problema ormonale, ma come mai? Cosa possiamo fare per ridurre, per cercare di un po' tagliare, allentare questo feeling? Beh, potremmo dire che la mente femminile, che ha una marcia in più, ma mi permetta di dire forse un freno emotivo in meno, è predisposta, predispone ancora meglio al mal di testa, in particolare a quello emicranico. E poi la donna purtroppo è anche penalizzata dal fatto che alcuni farmaci, pensiamo alla pillola che è un farmaco e che lei prende piuttosto frequentemente, possono, anche se non c'è proprio una visione univoca su questo, peggiorare la propria cefalea. Ci sono alcune regole, grosso modo. Possiamo dire che l'emicrania nasce nella donna, l'emicrania come forma principale di mal di testa, con la pubertà e tende a scomparire con la menopausa, e potremmo dire per certi versi che è un aumento, anche perché una volta le donne partorivano più figli e il periodo della gravidanza e il puerperio è forse uno dei periodi più rosei sotto il profilo del dolore. Occorre che la donna, che si fa carico in Italia, non nel mondo, non solo del mondo del lavoro, ma del mondo delle faccende di casa, delle vicende della famiglia, esattamente come prima della sua emancipazione fortunata negli ultimi anni, si dia un po' una regolata. Quindi se noi perdiamo negli aspetti ormonali, perché quello è ovviamente un settore in cui la fisiologia detta legge, dobbiamo necessariamente agire sui nostri elementi scatenanti. Lo stress, e sottolineo sempre il digiuno. Vedevo ieri una signora che, per tenersi in forma, ha una certa età, ancora una bella donna, saltava qualche pasto. Beh, questo è un elemento rimediabile ed è un errore grossolano che il soggetto non sa di compiere, ma che paga con degli attacchi di mal di testa a volte molto importanti. Saltare pasti può farci venire mal di testa, anche alcuni elementi, ne parleremo tra poco, ma ci sono anche dei rimedi più naturali che il professor Barbanti ci suggerirà. 800 24 00 24. Ivano mi scrive, ad esempio, contro il mal di testa cosa c'è di meglio di una buona tazzina di caffè? Un caffè, per favore. Come lo vuole? Come lo posso volere il caffè? Moccaccino, marocchino, moccacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con l'acqua calda a parte, doppio. Cucciolino, valdostano, shakerato, con ginseng, corretto grappa. Io ti consiglio il Kafka, la sua specialità. Un po' più di un caffè macchiato, un po' meno di un cappuccio. Chissà quale caffè prenderà Ivano, e se anche voi, come molti ascoltatori mi suggeriscono, amate aggiungere al caffè un po' di limone per potenziare l'effetto. Ma prima di parlare di alimenti sì, alimenti no e di rimedi naturali, andiamo ad Ascoli Piceno, anzi, per l'esattezza, nella provincia di Ascoli Piceno, dove vive Eva. Buongiorno. Buongiorno signora Nicoletta. Buongiorno a lei, Eva. Mi dica della sua testa, delle sue meningi. Allora, io ho sviluppato nell'anno 2009 un'emicrania a grappolo molto molto violenta, con questi episodi circoscritti, circa 3 mesi ognuno, sempre 2 all'anno, e con gli attacchi programmabili durante la giornata. Come diceva il professor Barbanti, prevedibile, vero professore? Quindi sì, si può segnare già sull'agenda il bollino rosso di quando arriverà. Quando adesso come va? Dentro in un episodio così, tanto non si sa più nient'altro. Mi sono fatta seguire da centri per l'emicrania, dove però ho le ricette per i triptani, per l'ossigeno, tutto quanto. Però la svolta è arrivata l'anno scorso. Che succede? Perché logicamente uno che ha questa cosa devitalizzante, perché ti tira via ogni vitalità un periodo del genere, si mette solo a cercare... Ma cosa le ha fatto? Certo, Eva, qual è stata la svolta? Allora, prima cosa, ho cambiato per conto mio, convincendo il mio medico, il farmaco. Mm. Ho lasciato l'isoptin e... Sì, va bene. Ha cambiato terapia e poi cos'altro? Così. Allora, cambiato come terapia, sì. Isoptin l'ho abbandonato, sì. E prendo il Norvasc. Va bene, ma... Poi sono andata avanti con... ho smesso di fumare. Ecco, arriviamo lì. Professor Barbanti, un altro messaggio di un ascoltatore: quando ho smesso di fumare mi è passato il mal di testa. Allora, cefalea a grappolo è uno dei dolori più forti, vero? Che possono... È il dolore più atroce della specie umana, con la colica renale e il dolore da parto. E la signora Eva, ci fa caso, durante l'attacco, ahimè, deve ballare un ballo molto veloce, non riesce a stare ferma. E dicevamo prima, il ballo di San Vito, muoversi continuamente. Il fumo con questo tipo di mal di testa ha uno strano rapporto. Pensate che nel 60 7 uomini con cefalea a grappolo, una donna. Adesso il rapporto è 2-1 e va stranamente di pari passo con l'uso del fumo e con i livelli di occupazione della donna. Detto in altri termini, i costumi delle donne, l'abitudine delle donne che si sono avvicinati a quelli maschili, questo è scientificamente dimostrato, vanno di pari passo con una parità, ahimè triste ormai, di frequenza tra donna e uomo, anche se è ancora prevalente nell'uomo. E il soggetto con cefalea a grappolo è un soggetto che fatica alcune volte a contenere l'impulso, è un soggetto istintivo ovviamente nel bene, quindi sono spesso dei fumatori, dei buoni mangiatori, raramente sono astemi, e il fatto di avere così dato una svolta, forse anche comportamentale, può averla aiutata. Quindi smettere aiuta. Abbiamo Marco dalla provincia di Lucca, Antonio da Parma e Paolo da Bergamo. Facciamo una infornata, come si dice, di telefonate. Intanto aspetto anche le vostre chiamate all'800 24 00 24, in cui potete dirmi anche che cosa ve lo fa passare oltre il caffè. 800 24 00 24, si trovano dei rimedi strani. Ad esempio, un'ascoltatrice mi scrive che se lo fa passare fasciandosi la testa con un panno opportunamente riscaldato, e mi assicura che funziona. E tra l'altro mi prega proprio di darvi questa informazione. Marco dalla provincia di Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta, sono Marco, ho 59 anni. Sì. E per quanto riguarda il mal di testa, ne ho sofferto a partire dall'età di 24 anni, perciò mi sono sposato in quel periodo, non perché mia moglie sia la causa, ci mancherebbe altro, ma... Si è detto tutto da solo, Marco, eh? Sì, sì, no, ma perché... Va bene. Non vorrei che magari mi ascoltassi. No, per carità, certo. Magari... Allora, io associo tutto all'alimentazione. Sì. Perché? Perché quando ho scoperto di avere un po' di colesterolo, sì, venuto casualmente dopo aver mangiato un bel po' di pistacchi, cioè quei pistacchi verdi, mi sono fatto le analisi dopo che sono stato male, c'era un po' di colesterolo. Abbiamo preso provvedimenti, mia moglie stava facendo una dieta, anch'io ho fatto la dieta, ho modificato completamente il mio modo di alimentarmi, e da quel momento in poi... Ma se lei dovesse raccontarmi la sua dieta, che cosa la caratterizza? È una dieta che ha più frutta e verdura, e punta più sulle proteine? Più frutta e verdura, perciò è stato completamente eliminato tutto il latticini. I latticini sono stati eliminati, la carne rossa, non dico completamente perché no, questo certo, non è necessario, però è completamente rivoluzionata. Da quel momento in poi qualsiasi tipo di emicrania, dalla più debole alla più intensa, ne soffrivo in maniera veramente fortissima, da dovermi mettere a letto e non rialzarmi per un giorno intero. È svoltato. Allora, completamente sparita, anzi non me la ricordo nemmeno più. Bravo Marco, io sono molto contenta per lei. Grazie per aver chiamato, e la telefonata di Marco mi dà lo spunto per rinnovarvi l'invito. Che cosa è cambiato nella vostra vita? Che cosa vi ha fatto passare o diminuire gli attacchi di mal di testa? Un alimento, una dieta, un'attività fisica, un amore? Essere e benessere. La mia testa. Oh, la bella vita del Philippe Montier. Eccola qua, calda spugna. Il capitano ha un terribile mal di testa. Non bisogna far chiasso. Voglio salutare in linea con noi il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professor Tirelli. Buongiorno Nicoletta, agli ospiti e agli ascoltatori. Allora professore, noi possiamo darci un po' una mano ed è quello che io chiedo a lei. Le vorrei segnalare alcuni casi raccogliendole un po' dagli sms che sono arrivati e lei potrebbe darci una lettura secondo la medicina cinese del nostro disturbo e suggerirci alcuni punti su cui effettuare delle leggere pressioni o dei massaggi. Che dice? Bene, ci proviamo. Allora, iniziamo a venire in aiuto di chi stanotte ha riposato male e si è alzato con un po' di mal di testa. Questa sintomatologia generalmente riguarda, secondo la medicina cinese, un deficit, un vuoto cosiddetto dei reni. Non ci sono patologie in atto dei reni, lo voglio subito specificare, sì. Ma c'è una sensazione proprio di testa vuota, uh-huh. E quindi la tipologia, diciamo, di mal di testa in questo caso è di assenza, di vuoto. E questa situazione è spesso associato però anche a problemi emotivi, tant'è che reni e cuore nella medicina cinese sono un legame indissolubile. A questo punto il suggerimento che posso dare sì. Per alleviare la sintomatologia del mattino è proprio quella di risvegliare in realtà il vuoto, ossia non vado a stimolare niente con le mani, ma con le punte delle dita delle mani, ma con tutto il palmo della mano. Ossia, faccio quella famosa tecnica di cui abbiamo parlato tante volte, il do-in. Do-in è picchiettare sì. Col palmo della mano, dove? Proprio sui canali interessati, quelli vuoti che dobbiamo risvegliare. Il canale del cuore è all'interno delle braccia, proprio mm-hmm. Sulla parte interna delle braccia, mentre il canale del rene è all'interno delle gambe, quindi coscia interna e braccio interno. Perfetto, questa è la prima, diciamo, azione che possiamo fare per recuperare un po' di quel vuoto, ritrovare energia. Invece, quindi ricordate, se stamattina vi siete alzati con il mal di testa, interno braccia, interno gambe, interno cosce. Sì, e poi ricordarti anche che tra le 17 e le 19, quindi sì. Tra le 5 e le 7 del pomeriggio, potrebbe esserci un ulteriore calo, perché è proprio il segnale dei reni che presentano stanchezza. Quindi non vi preoccupate se nel pomeriggio poi ci potrebbe essere un nuovo calo, fa parte della fisiologica azione dei reni. Allora, vogliamo occuparci di chi oggi deve affrontare una giornata particolarmente pesante, si sente già sulle spalle il venerdì, i figli sono tornati a scuola, deve fare mille cose, e se lo sente arrivare, sa che prima o poi arriverà? Lo associerei proprio a un tipo di tensione da performance, sì. Quindi l'organismo si mette in atto, aziona tutti i meccanismi cardiocircolatori, respiratori, locomotori al massimo del livello, e quindi la cosa primaria da farsi è respirare, ok? La respirazione è quella cosa che ci permette di allentare tutte le tensioni. Io suggerirei però di farla in un modo preciso, visualizzando le zone delle fasce muscolari della testa, immaginandole come se fossero delle tante fette come quella di un'arancia, no? Sì. E dire ad ogni espirazione, ad ogni atto espiratorio, quando butto fuori l'aria dalla bocca, sì. Queste zone si vanno a rilassare, ma ad ogni inspirazione, ogni atto inspiratorio in cui porto l'aria dentro il naso, in realtà io carico il mio organismo di energia. Perché? Perché la performance ha bisogno da una parte di allentare le tensioni, ma dall'altra di assimilare, accumulare quante più energie possibili. C'è un punto importante della medicina cinese da stimolare, che è quello sotto lo sterno, cioè io prendo come punto di riferimento il mio sterno, sento sì. Che a un certo punto non ci sarà più l'osso dello sterno, ma la muscolatura addominale, quella sì. È la zona in cui quando inspiro non faccio pressione, ma quando espiro, butto fuori, faccio una piccola pressione molto delicata, e questo mi permette di allentare le strutture esofagee e gastriche che spesso vengono interessate in questi casi. Grazie professor Tirelli per essere stato con noi, ci siamo segnati i punti e quindi abbiamo anche una lettura secondo la medicina cinese del nostro disturbo. Noi ci sentiremo presto, le auguro una buonissima giornata. Lei di mal di testa soffre? Assolutamente no, devo essere l'esempio, no, scherzo. Ogni tanto sì, e mi faccio anch'io ovviamente i miei autotrattamenti. Grazie. Buon weekend a tutti. Grazie al professor Tirelli che ci ha dato una mano, proprio letteralmente. Ma professor Barbanti, abbiamo detto che ci sono dei rimedi naturali. Vogliamo ricordarli? Se abbiamo un paio di minuti in modo che i nostri amici possano prendere nota? Sì, beh, intanto cominciamo a dire cosa possiamo fare tutti i giorni. Sì. Chi sia cefalalgico, in particolare l'emicranico, bere molta acqua. Sì. E quanto noi facciamo fare anche a chi prende tanti analgesici, a volte facciamo delle vere e proprie idratazioni venose. Secondo, chi abbia una cefalea di tipo tensivo, sì, in cui la tensione è tanto muscolare quanto emozionale, l'utilizzo che loro spesso fanno di balsami, tipo il balsamo di tigre sulle tempie, ha un'importanza non tanto e non solo per quello che fa localmente, ma sia per la procedura, sia per l'odore che viene emesso e che distrae il paziente dalle sue costanti applicazioni. Quando c'è l'attacco di mal di testa, bene il caffè, ma forse sarebbe meglio il tè col miele, mi spiego anche perché. Il tè si beve più lentamente, impone il relax, ha la teina e quindi ha proprietà analoghe al caffè, e se mettiamo dentro il miele riusciamo a colmare quel vuoto energetico che è alla base dello scatenamento di molte emicranie. Ci sono poi degli strumenti un pochino più scientificamente provati, tra quelli naturali, anzi scientificamente provati, e sono il magnesio, sì, che riduce l'eccesso di eccitabilità delle cellule nervose, e la riboflavina, che è la vitamina B2 contenuta negli ortaggi, in tanti vegetali, e il coenzima Q10, anch'esso diffuso in natura, che consentono alle pile dei nostri neuroni emicranici di funzionare meglio, quindi di avere meno attacchi. Fantastico, professor Barbanti, questa del tè con il miele non l'avevo ancora né letta né sentita, la proveremo molto volentieri. Io vorrei salutare Paolo da Bergamo, che è in linea con noi. Paolo, buongiorno. Sa che, buongiorno, io volevo sentirla, ma ho 30 secondi, vogliamo salutarci, va meglio o va peggio il mal di testa? Va molto meglio da quando ho finito di studiare, da quando mi sono laureato, per cui negli ultimi 11 anni, grazie a Dio, il mio mal di testa è scomparso. Grazie, allora laureatevi. Buona giornata a Paolo, complimenti. Grazie al professor Barbanti che è rimasto con noi, ci ha raccontato, spiegato, fatto anche ballare, a Pietro alla Corte che è in regia, alla parte tecnica, e alla preziosissima Laura Vanossi in redazione, che di mal di testa devo dire ne soffre molto poco, se meglio lo faccio venire io, ma poco. Buona giornata, buon weekend, noi ci sentiamo lunedì. Essere e benessere.